Studio dell'Università di Harvard, è stato svelato il segreto della felicità, il segreto di Pulcinella, perché è una cosa che tutti bene o male sappiamo dentro di noi, quali sono le cose che veramente ci rendono felici. Ma il punto non è quello che sappiamo, il punto è se davvero, a partire da quello che sappiamo, investiamo tempo ed energia in ciò che ormai anche la scienza, con certezza quasi matematica, ci dice che può veramente renderci felice. Ma di che cosa si tratta quindi? Vediamo nel dettaglio questo studio dell'Università di Harvard. Si tratta probabilmente dello studio più lungo mai effettuato. Pensate, per ben 75 anni l'Università di Harvard ha seguito 724 persone nel loro percorso evolutivo, seguendone gli studi, la carriera, la salute e le relazioni umane. A partire dal 1938 sono state seguite le vite di due gruppi di uomini. Una parte di questi erano studenti ad Harvard, l'altra parte invece erano persone dei quartieri più poveri di Boston, che vivevano spesso in condizioni anche estreme di povertà. All'inizio dello studio queste persone sono state come radiografate, sono stati fatti dei colloqui con loro e con i loro genitori, sono state rilevate le loro condizioni di vita, sono stati fatti degli esami medici per fotografare anche il loro stato di salute. Poi queste persone sono cresciute, sono state seguite nella loro crescita. Alcuni sono diventati muratori, altri operai, medici. Pensate, uno è diventato persino presidente degli Stati Uniti. Alcuni sono diventati anche alcolisti, altri schizofrenici. Per qualcuno c'è stato un percorso di crescita sociale, per altri invece un percorso di decrescita e di povertà. Periodicamente sono stati esposti a colloqui, questionari, esami medici, colloqui anche con i loro figli o con i loro familiari. Quindi, qual è il succo di questi 75 anni di ricerca? Stringi, stringi, il messaggio più chiaro emerso da questa ricerca è questo: le buone relazioni ci mantengono felici e in buona salute. Le buone relazioni, i buoni rapporti umani. Sono almeno tre le lezioni che possiamo apprendere da questo studio. Primo, le connessioni sociali ci fanno molto bene, mentre la solitudine ci danneggia. Attenzione però che la solitudine non è che si misura con il numero di amici, è qualcosa di oggettivo in parte, ma è anche qualcosa di percepito. Voglio dire, ci sono quelli che per sentirsi bene in compagnia hanno bisogno di uscire 4 sere alla settimana con 10-20 amici per volta, altri invece che si accontentano di una uscita al mese soltanto con una persona, magari che sia però veramente un buon amico. Le persone quindi che si dichiarano sole e per questo infelici sono le persone che si sentono più isolate di quanto vorrebbero, e questa solitudine porta con sé delle conseguenze. La salute spesso peggiora prima, questo ci dice lo studio, il cervello regredisce più facilmente e molto spesso anche la vita sarà più breve rispetto ad altre persone che invece si sentono connesse con gli altri, con i loro amici. Seconda lezione: non conta tanto il numero di amici, la quantità delle connessioni sociali, quanto piuttosto conta la qualità. Le persone che vivevano in un perenne conflitto spesso avevano una salute peggiore ed erano più infelici. Al contrario, le persone che riuscivano a mantenere buoni rapporti si sentivano meglio, erano più felici e anche la loro vecchiaia progrediva più serenamente. Terzo, avere buone relazioni non soltanto protegge dall'invecchiamento e anche nel momento in cui il dolore compare sulla scena della tua vita riesci ad accettarlo e a gestirlo in modo più sereno. Avere buone relazioni aiuta anche a prevenire l'invecchiamento cerebrale. Ora, qual è il punto di tutto questo? Il punto non è soltanto sapere queste cose, perché queste cose le sappiamo, eppure tante volte investiamo il tempo e le energie in cose che non sono relazioni umane, come la carriera, come la salute fisica, come il conto in banca. Immagina di avere un capitale da investire, immagina di sapere con precisione assoluta, matematica, quali sono le azioni che ti daranno 10 volte tanto, soltanto che questo guadagno tu sai che sarà a lungo termine. Ci sono invece altre azioni, anche queste buone, che sai che ti daranno un guadagno invece molto alto, però a breve termine. Quale sceglieresti? Ecco, il punto è proprio questo, che spesso non siamo capaci di scegliere quelle azioni che ci daranno un grande guadagno però a lungo termine, e preferiamo invece titoli, magari titoli spazzatura, che però ci danno subito un guadagno che ci fa sentire felici, ricchi. Perché ci facciamo a volte fregare da annunci falsi? E perché investiamo tempo ed energia in cose che sappiamo che a lungo termine non ci garantiranno la felicità? Credo che ci siano almeno tre motivi per cui non scegliamo di investire in relazioni umane. Prima di tutto perché investire in relazioni costa tempo, costa fatica. Soprattutto costa, perché investire in relazioni significa dover impegnarci a cambiare noi stessi. Il cambiamento è sempre molto molto costoso, è molto scomodo, molto difficile da scegliere. Costa fatica avere pazienza, rispondere sempre bene, pensare all'altro piuttosto che a se stesso. Costa fatica saper perdonare, saper ammettere i propri errori. E se non siamo disposti a fare questa fatica, ci potrebbe succedere anche quest'altro paradosso, che un giorno ci guardiamo allo specchio e vediamo davanti a noi una persona triste, sola ed infelice, e allora per colmare questo vuoto continuiamo ancora ad investire il nostro tempo in cose che ancora non ci daranno mai la felicità. Secondo, non investiamo in relazioni perché non abbiamo in fondo una vera certezza matematica, perché laddove ci sono dei rapporti interpersonali, laddove ci sono delle persone libere che interagiscono tra di loro, beh, è un po' sempre una scommessa, non possiamo mai avere la certezza matematica che le cose ci andranno bene. E allora preferiamo investire in qualcosa in cui ci sembra che ci sia meno rischio, anche se in realtà questa ricerca, così come la nostra esperienza comune, ci dice che queste altre azioni nelle quali investiamo sicuramente non ci potranno dare la felicità. E poi c'è un terzo motivo, forse il più paradossale e beffardo. Investire in cose che non siano relazioni non soltanto è più immediato a breve termine, ci dà l'illusione di un successo, di un ritorno, ma spesso paradossalmente lo facciamo con il desiderio di guadagnare in relazioni. Faccio un esempio abbastanza semplice. Sul lavoro hai raggiunto una certa posizione e ora hai un lavoro che ti investe totalmente, al punto di non avere più tempo da dedicare alla tua famiglia, da dedicare ai tuoi figli. Perché lo stai facendo? Io sono sicuro che dentro di te non hai mai fatto questo pensiero del tipo: tra la carriera e i figli preferisco scegliere la carriera. In fondo ti dici, tu lo stai facendo proprio per loro, proprio per la famiglia, per i figli, e potrà capitarti che finalmente, quando avrai quel giorno raggiunto il tuo obiettivo, magari ti volterai e ti renderai conto di essere solo. Un po' come quel tipo di cui parla il Vangelo. Aveva guadagnato tanto, tantissimo, costruito granai più grandi per tenere tutta la merce che aveva prodotto, e quella sera stessa il Signore gli chiese la sua vita. A noi forse non verrà richiesta la vita, ma ci viene chiesto giorno per giorno di difendere con i denti quelle relazioni che soltanto loro possono dare un senso profondo alla nostra vita. Guardati intorno, guarda sul tavolo e decidi su che cosa investire, se in azioni spazzatura o nelle uniche azioni che ti garantiranno un rendimento elevato a lungo termine, che ti garantiranno la felicità, le relazioni umane.